sé yo, viene lento divagar una música brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Io avevo un ricordo insistente della mia fanciullezza, dei primi anni della scuola. Vedevo dei manifesti appesi alle pareti della mia classe elementare, erano i primi anni 60, con dei bambini mutilati che saltavano in aria su delle bombe, e un grande elenco di bombe inesplose e una dicitura: state attenti, non le toccate, potreste saltare in aria, chiamate i carabinieri. A tutti quelli a cui lo raccontavo prendevano per matto, dice, come no, gli anni 60, gli anni del boom economico, la mucca carolina, che c'entrano le bombe, che c'entra la guerra. Beh, ho voluto una mattina, il 22 gennaio 2009, proporre questo mio ricordo agli ascoltatori, e mi sono accorto che è vero, esistevano i manifesti e le bombe. L'Italia ha avuto una sorta di sfumata lenta, ancora la guerra colpiva, faceva mutilati e dava segni della sua terribile presenza per tutti gli anni 60. Questa mattina vi ripropongo il ricordo di tutti quelli che giocavano con le bombe inesplose. In questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, c'è una grande attenzione emotiva su un tema che a me ricordava qualcosa e mi sforzavo. Il tema è quello dei bambini bombardati, dei bambini esplosi, dei bambini saltati in aria. Senza fare paragoni o raffronti storici o contrapposizioni che non avrebbero nessun senso, semplicemente abbandonandomi al filo della memoria, io mi ricordo di appartenere a una generazione di bambini bombardati. Sembra assurdo, perché classe 1954, quando nacqui, la guerra era già finita da circa una decina d'anni. Quando io facevo le scuole elementari, erano gli anni 60, iniziato la prima elementare nel 1960, finito nel 65. Quindi erano gli anni in cui l'Italia viene raccontata in tutte le cronache, in tutti i ricordi, in tutte le rievocazioni, come il paese che si affacciava felice al boom economico, e il paese soprattutto che aveva scoperto la televisione e che era a sua volta scoperto la televisione. Noi abbiamo fatto spesso trasmissioni legate al filo dei ricordi, e piace molto al pubblico della radio abbandonarsi a ricercare le tracce più labili, più nascoste della propria memoria, quelle che molte volte non si riesce a leggere nemmeno sotto traccia nei libri di storia o nei documentari televisivi. L'Italia degli anni 50 e 60 era l'Italia della gioia del consumo, era l'Italia di Carosello, era l'Italia che aveva scoperto la lavatrice, era l'Italia che aveva scoperto l'automobile comprata a rate, era l'Italia sorridente del gioioso momento della sua entrata nel mondo dei paesi industrializzati. Ma allo stesso tempo io ricordavo qualcosa che era molto vicino e molto affine, come immaginare, quei volantini che si danno questi giorni per strada, le immagini che si vedono nei telegiornali, all'infinità di siti internet che ripropongono continuamente foto di bambini insanguinati, saltati su bombe. Nella mia classe di scuola elementare rurale nella provincia perugina c'erano dei grandi manifesti, dei manifesti che mi impressionarono molto, di cui poi ho trovato tracce in rete. Erano manifesti che rappresentavano bambini mutilati, bambini senza manine, bambini con la stampella, bambini che piangevano sempre. Uno in particolare me lo ricordo, di un bambino con una maglietta a righe come quella di Charlie Brown, e che piangeva, singhiozzava disperato, asciugandosi le lacrime con un moncherino coperto di fasce. Nell'incavo del braccio teneva un camioncino giocattolo, quindi giocava con quei moncherini, perché anche l'altro braccio era saltato in aria e era fasciato. Dietro, nel suo sfondo, con questa grafica meravigliosa, era la grafica che somigliava a quella di Walter Molino, l'illustratore delle copertine della Domenica del Corriere, si vedevano tanti altri bambini che saltavano in aria con le loro giacchettine, con le cravattine, con i calzoncini corti, tipica tenuta da bambino per bene di quegli anni, e per terra un lungo elenco, una lunga rassegna di bombe, bombe a mano di tutte le fogge, di tutti i colori. La scritta era: se trovate uno di questi oggetti per terra, non toccatelo, avvertite subito i carabinieri. E mi sono ricordato improvvisamente che in realtà una delle raccomandazioni più frequenti che facevano a noi bambini che la sera andavano a letto dopo Carosello, quindi bambini già entrati nell'epoca di civilizzazione che stiamo vivendo, bambini che oggi vi parlano di internet, vi parlano di Facebook, vi parlano delle nuove tecnologie. Beh, noi eravamo scissi da questa lunga sfumata lenta di una guerra che era nei raccolti dei nostri genitori, ma era nella realtà di noi probabili mutilatini, di noi bambini che giocavano con le bombe, con bombe ancora abbandonate, che ancora per una decina d'anni rimarranno qua e là e che facevano parte, sembrerà strano, dei nostri giochi quotidiani. Caro Melog, sono nato nel 1958 e ho iniziato le scuole elementari nel 64. Frequentavo la scuola pubblica Duca degli Abruzzi di Torino. Ricordo perfettamente, e l'ho spesso raccontato alle mie figlie, che nell'atrio della scuola erano appesi in grande evidenza manifesti che invitavano i bambini a non toccare oggetti rinvenuti in terra, poiché poteva trattarsi di ordigni inesplosi. Ricordo che sui manifesti erano riportate immagini di oggetti di forma cilindrica e rotonda, accompagnati da disegni piuttosto realistici di bambini vittime di esplosioni, evidentemente fatti per colpire la nostra immaginazione e attirare la nostra attenzione sul pericolo. Io già lanciai alla radio un anno fa questa idea, questo mio ricordo. All'inizio fui contraddetto, mi dissero che deliravo, non potevano esistere questi manifesti, soprattutto nel condizionamento della memoria storica di moltissimi dei nostri ascoltatori non potevano coincidere i due periodi, il periodo della felicità, del consumo, della gioia televisiva, del telequiz di Mike Bongiorno, delle gemelle Kessler, le prime vacanze e il periodo ancora di questa sorta di ricordo tangibile della guerra. Beh, io ricordo i miei compagni, i miei amichetti con la faccia ustionata. Perché? Perché avevano preso una bomba, avevano toccato qualcosa che non dovevano toccare. Io ricordo i nostri giochi andando a scavare laddove sapevamo che potevamo trovare quelle cose lì. Trovavamo proiettili, trovavamo cartucciere, trovavamo caricatori, trovavamo cose che non dovevamo toccare, però le toccavamo, le aprivamo, prendevamo quegli spaghettini di cordite con i quali facevamo dei giochi pirotecnici che non potevamo fare, rischiavamo tantissimo. Aprire un proiettile di mitragliatrice con le pinze per prendere la cordite e giocarci a scriverci le parole dando fuoco alla cordite era un gioco comune, tranquillo. Sto parlando della fine degli anni 60, quindi la nostra generazione. Questo non per fare catastrofistici parallelismi, ma semplicemente per andare a attingere in queste zone nascoste alla nostra memoria. Quanti di coloro che ascoltano ricordano questi manifesti con bambini mutilati? Quanti ricordano l'incubo nelle raccomandazioni dei genitori di non toccare gli oggetti strani, abbandonati per terra? E quanto erano strani questi oggetti e quanto a volte erano seducenti? 800240024. Non so dire se i manifesti facessero riferimento anche ad ordigni camuffati da giocattoli, ma ricordo benissimo che di giocattoli esplosivi mi parlava molto spesso mia madre, che certamente percepiva il rischio come reale per me e che mi raccomandava di non raccogliere e non toccare oggetti trovati per terra, dicendomi, di questo sono certo, che gli ordigni esplosivi erano spesso camuffati sotto forma di penne stilografiche. Mia madre mi raccontava anche, non so se per impressionarmi di più o perché ne fosse a diretta conoscenza, di almeno un episodio in cui un bambino era rimasto colpito da una bomba sotto forma di penna stilografica. Mi sembra anche di ricordare una raffigurazione pittorica del fatto, qualcosa sullo stile di Walter Molino, per intenderci. Sono certo che lei ricorda il famoso illustratore, ma non vorrei che la memoria mi tradisse. Al tempo il rischio di trovare per terra bombe inesplose mi sembrava qualcosa di normale. Oggi, a distanza di tanti anni, mi rendo conto che all'epoca erano passati già quasi 20 anni dalla fine della guerra, eppure essa era ancora così presente nelle nostre vite. Grazie per avermi dato l'occasione di condividere questi ricordi. Buon lavoro. Molti dei messaggi che state ascoltando erano le reazioni di quando un anno fa parlai di questo argomento. Allora non c'era possibilità di intervento in diretta alla trasmissione, quindi il passo avanti oggi va su una duplice direzione. Quello di poter aggiungere personalmente ricordo di quelli che non hanno potuto lasciare una traccia registrata allora nella segreteria telefonica. E quello di riflettere su taluni paradossi della storia. Nel rievocare, nel ricordare, nel mostrare, nel denunciare oggi le immagini dei bambini esposti sulle bombe, immagini drammatiche, immagini spaventose, immagini che appartengono a tutte le guerre, ma in maniera particolare sembrano più appartenere a questa civilizzazione della veloce trasmissione dell'immagine. L'immagine cruenta, quando viene nascosta, viene occultata, viene sigillata perché non si vuole dare motivi di inquietudine, motivi di critica o motivi di indignazione nei confronti di azioni che in sé non hanno sintomi di umanità, ha una sua particolare drammaticità. È lievemente inflazionata quando diventa un'immagine che si riproduce, che si riversa continuamente di sito internet in sito internet. Su Facebook c'è stato un momento in cui tutti mettevano al posto della foto del loro profilo la foto del bambino saltato in aria, del bambino esploso. Improvvisamente era un florilegio di bambini insanguinati, con pieno rispetto e piena commozione per ogni bambino che soffre in ogni momento della storia e in ogni fronte di guerra. Però vorrei che mi aiutaste a ricordare quando anche noi, paffuti e ipernutriti bambini degli anni 60, avevamo questo contatto diretto ed epidermico con le bombe che potevano esplodere. 800240024. Anch'io mi ricordo questo manifesto, ma non soltanto nelle scuole, me lo ricordo nelle strade, i primi anni del 1960, degli anni 60, diciamo. Anche in questo caso un bambino con le stampelle, con le mani fasciate ed un monito a non toccare queste cose strane. Io un po' terrorizzato perché tra le altre c'era un mio compagno di classe che mancava un braccio e aveva un arto artificiale, andavo spesso a giocare con lui e delle schede me l'ha fatta. Appunto anche lui era stato colto da queste bombe giocattolo e c'erano questi grandi manifesti. Mi scrive su Facebook dando l'idea che in realtà lentamente sta emergendo questa fetta di storie che molti sono dimenticati, perché sembra impossibile. Guardate, l'assemblaggio a posteriori che si fa delle partizioni, delle partiture del nostro hard disk organico, cioè della nostra memoria, non permettono probabilmente di mettere nella stessa evidenza alcuni episodi. Benessere e era televisiva con idea concreta, tangibile, che rimaneva impressa nella carne della guerra. La guerra sembra quasi un capitolo della storia, a un certo punto è chiuso con una saracinesca. Dalla guerra in poi diventa storia, non se ne parla più e poi inizia il periodo della ricostruzione. No, non è vero. I due momenti storici avevano una sorta di lenta sovrapposizione che è durata per molti anni. Mi scrive Alessandra su Facebook, dice: sono del 63, quindi un decennio dopo rispetto alla classe, la generazione che io sto cercando di circoscrivere. Ho fatto l'elementare in una delle prime classi miste e avevamo chiaramente un maestro. Un giorno dei compagnetti, un maschio, parlando, uscì dicendo che su una collinetta dalle parti di casa nostra alcuni ragazzi scorazzavano da soli per tutto il pomeriggio e per tutto il quartiere. Dentro delle grotte c'erano delle cose, i maestri cominciarono a chiedere dettagli. Il giorno dopo i ragazzi portarono non so che, qualcosa di metallico, forse bossoli. Per farla breve, si trattava di un deposito di roba della guerra e roba che scoppiava. Devo dire che i miei compagnetti allora erano molto smart, in quanto evidentemente avevano intuito la pericolosità degli oggetti presenti in un posto. Il mio maestro ha fatto il resto con questa stando la loro fiducia. Quindi l'idea che il residuato bellico era un prezioso gadget da acquistare, qualcosa che ci si passava tra amici, qualcosa che andava aperto, andava smontato. Avevamo tutti questa mania di andare a vedere come erano fatte dentro le bombe. Andrea, buongiorno. Andrea, buongiorno. Sì. Si ricorda anche lei questi manifesti delle bombe? Esattamente, intervengo proprio a questo proposito. Io appartengo a una generazione, diciamo così, successiva, perché sono del 70. Però quando... No, è molto interessante, mi scusi se la interrompo, sì. Poi la lascio parlare. Abbiamo già identificato tre decenni generazionali, comunque avevano una testimonianza tangibile della guerra, che sì, era finita, ma è come se continuasse, visto che le bombe facciano parte del nostro quotidiano. Esatto, si stava sfumando questo ricordo della guerra, però quando lei ha citato questo manifesto di questo bambino che con i moncherini teneva un camioncino, io l'ho rivisto nitido nella mia mente. Probabilmente non ho visto l'originale del manifesto, l'ho visto magari riportato su un'enciclopedia o su un libro delle elementari. L'ho pubblicato stamattina nel mio profilo Facebook, chi volesse andarlo a vedere se lo va a cercare. Appena posso lo andrò a vedere, perché ho veramente anche curiosità di rivederlo, però lo ricordo perfettamente con questa maglia a righe. Vorrei sottolineare a questo proposito l'efficacia efficacia comunicativa che ha questo manifesto, se a distanza di più di 30 anni ritorna così preciso nella memoria, effettivamente colpiva. Colpiva perché in realtà era distribuito su tre piani, c'era una sequenza narrativa su tre piani. Il primo piano naturalmente era il moncherino fasciato del bambino con il camioncino, che ne aumentava la drammaticità. Non soltanto è mutilato, ma da mutilato deve in qualche maniera arrangiarsi a giocare. Il camioncino è un camioncino anche lui che riproduce probabilmente un mezzo bellico, perché ancora i giochi erano quelli legati all'immaginario della guerra. Sullo sfondo l'esplosione, la bomba, il fuoco e i 3-4 bambini saltati in aria, anche loro tutti vestiti carini, con i volti spaventati, atterriti in mezzo al fuoco, che uscirono dal fuoco perché la bomba l'ha fatti saltare. E poi allineate in fila, in piano, sul terreno, il cielo era scuro, nero, quindi c'era ancora questa fosca idea di incombere della guerra, tutte le bombe, i siluri, i missili, le mine antiuomo e anche quelle piccole bombe che sembravano dei giocattoli. C'era poi questa sorta di leggendaria, ma in parte vedremo quanto aveva anche dei fondamenti reali, storie che gettassero gli alleati, i tedeschi. Le versioni poi mutavano a seconda del punto di vista ideologico di chi le raccontava, queste insidiosissime bombe a forma di penna, a forma di giocattolo, a forma di scatoletta colorata, sicché i bambini le andassero a raccogliere e gli saltassero in aria le manine. Paolo, buongiorno. Ciao Nicoletti. Anche lei giocava con le bombe? Non giocavo con le bombe, ma giocavo a fare la guerra, e lo facevo in un periodo che era bello lontano da quando era finita la guerra. Beh, a guerra ci giocano ancora, penso, facevo... i bambini. A guerra ci hanno sempre giocato i bambini, no? Sì, però non si giochi magari con gli elmetti, a cercarti i cadaveri dei tedeschi, degli inglesi. Io mi divertivo nel bosco del Padiglione, andavo da mio zio vicino a Anzio, dove c'è stato lo sbarco, ed era proprio in una zona dove c'è stato un bel macello nel 43. Ma c'erano ancora tracce residuati della guerra? Il bello era che c'erano tracce, e allora con i cugini, con gli amici, ci divertivamo, ed era forte, perché andavamo a trovare gli elmetti, c'era pezzi di metallo che probabilmente erano schegge. Io ricordo questa sensazione di scavare nel terreno argilloso e lentamente trovare il metallo che si era in parte ormai mineralizzato, stratificato, e si trovava di tutto, le scatolette che si aprivano, che ancora dentro c'era il cibo che contenevano. Era vero. Ed era bellissimo, perché giocavamo alla guerra con residuati di guerra. Tra l'altro lì al posto del padiglione vicino c'era il poligono di tiro dell'esercito a Nettuno, e ogni tanto si sentivano i colpi di addestramento del poligono, che creavano anche questa ambientazione guerresca. Lei ha mai smontato un proiettile di mitragliatrice? No, però abbiamo trovato delle cartucciere, sì, tiravamo fuori la cordite. Che esattamente quello che sto dicendo io, per tirare fuori la cordite bisognava smontare la capsula dal bossolo, quindi era un'operazione pericolosissima, che poteva saltarci tutto in mano, ma con le pinze, quante volte l'abbiamo fatto? Era segretissimo tutto quello che facevamo, la minaccia era non andate nel bosco perché ci sono le sabbie mobili e non ci torna più nessuno dal bosco. Allora noi invece non ci andavamo perché nelle sabbie mobili potevamo tirar fuori i cadaveri degli tedeschi e degli inglesi. Questo era ciò che volevo in parte far riemergere il ricordo. Sono ricordi talmente profondi e talmente rinnegati che nessuno nemmeno si ricorda di averle fatte queste cose. Ma noi fummo una generazione di piccoli artificieri, ancora prima di diventare una generazione di piccoli consumatori. Anch'io ho questo ricordo molto preciso di manifesti alle scuole elementari con anche i disegni e le figure di queste bombe. E poi non so perché ne parlavo con mia mamma nei giorni scorsi e lei ricordava benissimo delle bombe fatte a penna stilografica e diceva che erano bellissime. Io ho uno strano cammellino riguardo alle bombe. Ero molto bambino, un cugino mi è sempre stato presentato con un... purtroppo con il suo volto deformato fin dalla mia più tenera età, e io mi chiedevo cosa fosse successo a questo povero cugino, e mi si raccontava che aveva avuto questo terribile incidente giocando con una bomba. Io in questa età non capivo, con le bombe non si gioca, le bombe le tirano i cattivi, le tirano quelli che vogliono fare la guerra. Io lo ricordo in seconda elementare e ne ero assolutamente terrorizzato, un bambino con le mani fasciate, anzi quelle che erano state le mani, i moncherini fasciati e attorniato da queste bombe di vario genere. Ti dirò che successivamente, pochissimi anni fa, ho trovato nella mia città un antiquario che vendeva lo stesso manifesto ed io non sono riuscito a comprarlo perché ne ero ancora terrorizzato. Mi scrive Edoardo su Facebook, sono del 67, ricordo quando avevo 5-6 anni conobbi un ragazzo che aveva il volto deturpato e la mano amputata, credo avesse 15-20 anni, nella memoria di bambino mi colpì moltissimo, tanto che ricordo ancora in maniera molto viva. Mia madre mi disse che aveva raccolto una bomba e mi raccontò di non farlo mai. Giovanni da Firenze, buongiorno. Buongiorno, dottore. Ecco, io l'ho fatta stare in ascolto all'inizio della trasmissione. Ho ascoltato con interesse. Ecco, lei invece ci aiuterà da adesso, alla fine della trasmissione, a trasformare i ricordi in fatti concreti. Lei ha scritto un libro su questo argomento, La mia bonifica, editoriale Lupo, e ha un sito internet addirittura, la mia, cioè biografiadiunabomba.it, dove racconta proprio quello che lei ha fatto nel corso della sua vita, bonificare l'Italia da questi residui bellici. Innanzitutto, questo ricordo su quali dati concreti appoggia? Perché c'erano questi manifesti? Beh, i manifesti erano obbligatori all'epoca. Io li rimetterei, ma all'epoca erano obbligatori in tutte le scuole, proprio perché si doveva dare un'educazione ai ragazzini orientata proprio in questo triste argomento che sarebbe stato quello di non toccare i residuati bellici a vista. Perché la guerra lasciò molte bombe inesplose anche nel nostro paese. Beh, l'Italia è una discarica bellica, se noi vogliamo. Sì, sì, l'Italia è... Insomma, ho ascoltato lo sbarco ad Anzio, lo sbarco a Salerno in Sicilia, la linea Gustav, le battaglie sono state tante, numerose, e di conseguenza ovviamente... Lei che ha lavorato per tanto tempo proprio nello sminamento delle bombe in Italia. Nella bonifica bellica. Nella bonifica bellica, sì, ecco, forse il termine più esatto è questo. Poi ci sentiamo dopo la pausa. Solo una battuta. Ma queste famose bombe insidiose a forma di giocattolo, di oggetto accattivante, esistevano davvero? Ma no, questa è solo una leggenda. Dovrei parlare, ecco, in questo caso come ricercatore storico. In effetti nel 1944 c'è stata qualche penna stilografica, però erano costruite all'epoca dalla RSI in gravi difficoltà, che avevano diciamo questa ultima speranza di contrastare l'opinione e i sentimenti degli italiani dell'epoca contro gli alleati, ma in realtà gli angloamericani ci potevano bombardare con bombe da 12.000 libbre, non ci bombardavano certamente con le penne stilografiche. Beh, noi ci fermiamo, fra un istante ci risentiamo. Quanto sono ancora impresse vividamente, concretamente nella vostra memoria le immagini dei bambini saltati in aria con le bombe? Melog 2.0. Io purtroppo ho la testimonianza della mia famiglia. In casa di mia nonna, quando nel 1947 hanno trovato una penna stilografica, sono stati feriti tutti. Uno zio è poi diventato un mutilatino di gnocchi e in conseguenza di questa bomba è morto. Se mia nonna fosse ancora viva, ricorderebbe con dolore questa tragedia che ha colpito la sua famiglia. Ciao Melog, mi ricordo molto bene il disegno di questo bambino accovacciato con questa bomba tra le gambe, che però più che una bomba aveva la forma di un uovo di cioccolato, col sasso in mano nel gesto di colpirlo. E poi c'erano a corollario poi dei disegni di bambini mutilati di qualche bomba reale. Io ricordo, ed era una cosa che mi colpiva moltissimo, si parlava dei mutilatini di Don Gnocchi, questo prete che pare aiutasse i ragazzi, i bambini vittime degli ordigni inesplosi. E ricordo anche i manifesti, e devo dire che mi colpivano moltissimo, ma soprattutto quella parola, i mutilatini di Don Gnocchi. Sì, anche molto attuale la figura di Don Gnocchi. Pochi giorni fa il Papa ha approvato un decreto relativo a un miracolo attribuito a Don Gnocchi, quindi a un passo avanti verso la beatificazione di questo prete che si occupava in maniera particolare appunto degli esiti infantili di queste bombe abbandonate. Mi stanno scrivendo moltissimi ricordando i luoghi proibiti. Maria Giovanna dice che non poteva frequentare il giardino di una villa della sua città dove durante la guerra c'era stato il comando tedesco. Il giardino era minato, ma loro ci andavano naturalmente lo stesso. Hermes invece mi dà una contrapposizione, manda delle foto di una moderna cluster bomb che sembra appunto coloratissima come un giocattolo e una bomba a forma di palla da tennis, quindi l'attitudine è rimasta. Noi abbiamo raccolto una testimonianza della direttrice del Museo Storico di Montese in provincia di Modena, Maria Elena Baraccani. Questa signora ha nel suo museo di questa località che è stata flagellata da bombardamenti durante la guerra una sezione proprio dedicata ai residuati bellici usati come materiale didattico nelle scuole italiane negli anni del dopoguerra. La valigetta didattica è una graziosa valigetta di legno che contiene al suo interno numerosi ordigni ovviamente disinnescati che venivano usati nelle scuole per insegnare ai ragazzi quali erano gli oggetti pericolosi che non dovevano essere toccati dai bambini. Naturalmente poi la prima cosa che facevano i bambini uscendo è andare a cercare proprio quegli oggetti lì perché contenevano polvere da sparo. All'interno della valigetta didattica ci sono delle granate, delle bombe a mano e dei piccoli ordigni sia aerei che di quelli che potevano essere sparati con i mortai. Certo, mi rendo conto che in questi giorni stanno facendo le grandi campagne di alfabetizzazione nelle scuole italiane per insegnare ai bambini, ma anche ai loro insegnanti, ai loro genitori, come salvaguardarsi dai pericoli della rete. Attenzione, attenzione a non cadere nella rete di internet, state attenti. Pericoli indubbiamente molto importanti, però la mia generazione è quella che si vede arrivare un signore a scuola la mattina e ricordo la guerra era già qualcosa di passato, il lontano, il seppellito, nei racconti dei genitori, non nella nostra realtà. Beh, apriva una valigetta e ci mostrava alcune bombe facendoci capire che noi potevamo incorrere materialmente, concretamente in quelle bombe. Erbanna, buongiorno. Buongiorno. Ecco, io volevo semplicemente portare quella che è stata la mia esperienza di bimba. Racconti. 4 anni, e in piazza, io abitavo a Cremona e in piazza Marconi mi ricordo che ho raccolto questa penna stilografica che mi sembrava una cosa bellissima che avevo trovato, se non che avevo qualche passante che mi ha visto e mi ha strappato questa penna dalle mani. Mi ricordo che mi sono messa a piangere e battere i piedi perché la rivolevo, mentre questo signore cercava di spiegarmi che era una cosa pericolosa, che era una bomba. Ma era o non era una bomba alla fine? Era una bomba. Allora, sentiamo Giovanni La Firenze, autore della mia bonifica, che tuttora si occupa appunto della bonifica del nostro territorio dalle bombe, dal rischio delle bombe della guerra, su queste penne esplosive, visto che molti mi scrivono e molti me ne rievocano, possiamo avere qualche notizia in più? Sicuramente, a giudizio mio, poi dettato dall'esperienza personale e da ciò che mi hanno raccontato i pionieri della bonifica, ecco. E queste penne stilografiche in realtà non sono mai state utilizzate, nel senso non hanno mai bombardato con queste penne. E queste penne non sono mai entrate a far parte del gioco criminale della guerra. Quindi era più una strategia magari di terrorismo psicologico, lo chiameremo sì, oggi. C'è stato un qualcosa di... Ho ascoltato con interesse la testimonianza dell'amica. Se questa penna fosse stata una bomba, già nel passaggio tra due mani sarebbe esplosa. però non è esplosa, perché molto probabilmente a quei tempi si confondeva la penna con qualche magari un detonatore o altri artifici. Infatti guardi, pensi che un ascoltatore già mi ha postato su Facebook nel mio profilo delle foto di detonatori di diverso colore a seconda dei tempi di esplosione, via dicendo, spiegandomi che c'erano anche questi altri ordigni, quindi c'è una grande competenza alla fine anche del cittadino comune in quello con cui poteva farsi un po' male o anche molto male. Giuseppe, buongiorno. Giuseppe? Buongiorno. Sì, lei si ricorda benissimo queste bombe. Io ricordo lontanamente, ricordo di più che altro di qualche penna stilografica di color giallo, così, vagamente, ma no, non ne ho viste mai esplodere di questi oggetti così, mentre ho visto esplodere ben altro che faceva molto più paura. Lei era di quelli che poi andava a raccogliere, diciamo, i residuati bellici per ricavarne metalli? Andavo a raccogliere perché di notte c'erano i bombardamenti e quindi pensavo che andavo di mattina presto a raccogliere le schegge per strada. Beh, cercavo di prenderne tante, proprio fresche si può dire. E ricordo benissimo per esempio che nella nostra via Volturno scendeva un gruppo, un plotone di tedeschi a cui io intralciavo la strada perché ogni tanto mi chinavo per prendere queste cose e c'era l'ufficiale che mi scacciava via perché disturbavo la marcia delle... Sì, ma poi cosa ne facevate con questo metallo? Lo vendevate? Praticamente io la guerra l'ho vissuta la guerra interamente e anche un pezzo del dopoguerra. Sì, noi siamo più interessati in questo momento a parlare di questa sfumata lenta della guerra. I racconti di guerra sono interessanti e utili. Praticamente anche nel dopoguerra i pericoli erano tanti perché c'erano tanti oggetti pericolosi che stavano abbandonati in ogni dove, quindi si doveva stare attento e mia madre mi avvertiva tanto di queste cose, di guardarle, insomma di stare molto lontano da questi oggetti. Grazie Giuseppe, c'è un altro Giuseppe che chiama da Brugherio. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno. Ecco, lei ha giocato con le bombe da piccolo. Guardi, io arrivo dal Polesine, abito a Brugherio da anni ma arrivo dal Polesine. Nel Polesine, nel mio paese, erano rimasti gli ultimi due ponti sul Po. Per cui l'armata tedesca che stava andando da sud a nord si era bloccata lì perché venivano bombardati tutti i giorni. Quindi sono accumulati al mio paese quantità indescrivibili di armi e di munizioni. Tant'è che noi da bambini giocavamo con le armi vere. Ci racconti un po', perché questa è un'altra esperienza interessante. Le armi della guerra rimanevano nascoste nelle cantine, nelle stalle? No, erano disponibili sui carri, per cui nei canali, nei fossati... E dietro i pagliai, dietro c'erano questi carri che erano carri tedeschi, carichi di armi, di munizioni, la zecca, chi più ne più ne mette, insomma. Di che anni sta parlando? Era un'armata che stava ritirandosi. Vabbè, quindi ancora, diciamo, la guerra è in corso. Finita la guerra, questa gran parte di questa roba è rimasta sepolta nei canali, Noi da ragazzini, io frequentavo la compagnia più vecchia di me perché il 43 aveva dato pochi Natali, gli uomini erano al fronte, per cui io ero nato perché mio padre era stato invalido di guerra e tornato a casa. Fatta questa premessa, si giocava con le armi, si smontavano i proiettili, non soltanto delle mitragliatrici, ma anche dei cannoncini, per vendere i bossoli che servivano, quelli dei cannoncini, nelle chiese per fare i portafiori. E i proiettili invece... Cioè ve li commissionava il parroco, dice portatemi... Esattamente, mentre per quelli più piccoli delle mitragliatrici si andava a vendere allo stracivendolo, per intendersi. Si accumulavano chili di polvere da sparo, di diverso tipo, ce n'era di grigia a forma romboidale, tipo pastina per bambini, tre o quattro tipi... Gli spaghettini di cordite, me li ricordo benissimo. Esattamente, cordite. Questi qua, una volta ogni settimana, venivano incendiati di notte da noi ragazzi. In più, si andava a pescare con le bombe a mano. Lì era ricco di canali. Io, a 6 anni, mi hanno insegnato a lanciare una bomba a mano tedesca. E chi gli ha insegnato? Suo padre? No, i ragazzi, quelli più vecchi di me. Le bombe a mano tedesche, quelle con il manico di legno? Con il manico, si svitava il manico, si aspettava un attimino, si buttava nel canale, tempo, pochi secondi, uno schizzo d'acqua veniva sul pesce con la vescica natatoria spaccata, si pigliava e si andava a vendere, loro lo vendevano, poi davano qualcosa anche a me. Un'altra cosa riguardo i manifesti sono arrivati non subito nelle scuole, nel 49-50 ancora non c'erano, arrivavano però gli artificieri, qua do ragione alla dottoressa del museo, arrivavano gli artificieri con le valigette cariche di munizioni, di bombe inerti, e ce le facevano vedere. Noi dovevamo, abbiamo l'obbligo, dalla famiglia, da tutti, di segnalare tutte le bombe trovate con una frasca. Si metteva una frasca e tutti sapevano che dove c'era la frasca c'era una bomba. Se andava a casa si dava l'allarme. Nel giro di poco tempo arrivavano i carabinieri e gli artificieri. Comunque, gran parte di queste bombe, invece che mettere la frasca, mi sembra aver capito, le smontavate o ci andavate a pesca? Certamente, non tanto le bombe. Le bombe si usavano per andare a pescare, quanto i proiettili che erano merce da vendere poi. 800240024, stanno arrivando prove testimoniali di alcuni aspetti del nostro paese, della nostra componente, della nostra cultura, che in realtà probabilmente non tutti avevano ben presenti. Melog 2.0. C'erano delle cassette con delle maniglie, chi toccava le maniglie provocava l'accensione dell'amice e l'esplosione dell'ordigno. Oppure delle semplici scatolette, sollevando il coperchio, esplodevano. Oppure delle mine che oggi sembrano innocui vasi da marmellata, un bel barattolo di vetro con una lastrina di vetro sottilissima sopra, bastava appoggiare il piede, il vetro sepolto da uno strato di terra sottilissimo si rompeva e la mina esplodeva. Questa era Maria Elena Baraccani, direttrice del Museo Storico di Montese, dove esiste una sezione proprio dedicata a queste bombe dimenticate. Mi scrive un amico che voi conoscete perché è stato ospite molte volte, che è Stefano Morigi, un filosofo della scienza, e mi fa notare un particolare interessante. Dice: revochi opportunatamente bombe reali dimenticate, mentre ormai l'esplosivo era sublimato nella metafora linguistica della ripresa economica, il boom. È vero, il boom economico in sé è un immaginario vicino all'esplosione di una bomba, o persino nell'effimera traduzione di fascino femminile, la bomba del sesso, o anche maschile, ricordi l'inossidabile Dorelli che cantava Arriva la bomba, anno 66. Sì, le bombe, devo dire, siccome erano così presenti nel nostro momento di ripresa, ispiravano anche l'aspetto propulsivo di questa ripresa. Cesare, buongiorno. Buongiorno. Io volevo portare a questa testimonianza. Nel 1946, io ho 69 anni, nel 1946 a scuola a Milano, in via La Bovisa, scoppiò una bomba a mano manipolata da alcuni bambini. Due di questi bambini, dunque morirono tre bambini e due furono feriti abbastanza gravemente. Due di questi bambini, uno morto e uno ferito, erano della mia stessa classe. Non ci impressionò sicuramente il fatto, ma quello che ci impressionò di più fu quando il bambino ferito tornò a scuola dopo diversi mesi e aveva la faccia sfigurata da tutte queste piccole schegge che avevano lasciato come dei tatuaggi, probabilmente la polvere, dopo ho pensato poi nel tempo, negli anni, probabilmente la polvere da sparo aveva creato nelle ferite, questa era rimasta ed era come tutto tatuato sul viso da tutte queste piccole schegge, perché queste bombe erano tutte delle piccole schegge di latta, di cose, erano fatte per ferire il più possibile. Certo, poi sarebbe venuta la generazione che stiamo osservando adesso di quelli che si fanno il tatuaggio tribale, ma allora il tribale che ci si faceva addosso era quello che ci faceva la bomba, per i più sfortunati di noi, giocatori con bombe. Franco, buongiorno. Buongiorno. Anche lei è un sopravvissuto a un gioco con le bombe? Sì, nel 52 avevo 5 anni e ero stato affidato dal nonno in Abruzzo, provincia di Rieti, Sant'Anatolia. E mentre andavo su in montagna per trovare mandorle, cose del genere, ho raccolto una bomba che allora non sapevo, ma era quella tedesca, col manico in legno, e ho acceso un fuoco sotto una cavità rocciosa, è esplosa, per fortuna mi sono trovato soltanto svenuto, poi non l'ho raccontato a nessuno. In seguito poi ho trovato altri proiettili che smontavo. Ah, non era stato, diciamo, castigato sufficientemente all'incidente, ha continuato a smontare proiettili? No, dopo trovai delle casse piene di proiettili di mitragliatrici che mi divertivo a smontare e poi bruciare la polvere che c'era dentro. Va bene, grazie Franco. Giovanni La Firenze. Sì, sta venendo fuori un immaginario di italiani artificieri che nemmeno io immaginavo fino a questo punto. No, io ne sono purtroppo al corrente. Quello che desidero aggiungere è che bisognerebbe parlare un po' al presente e non dimenticare che le bombe, uno, non sono biodegradabili, Due, che il loro contenuto, vale a dire l'esplosivo, non perde l'efficacia. Perché questo? L'esplosivo, per perdere efficacia, deve essere esposto alla luce. E all'interno di una bomba a mano, da mortaio, quello che vogliamo, la luce dell'esplosivo non l'ha mai visto. E senza andare indietro negli anni, nel 2004, sì, a Reggio Calabria un ragazzino è morto a causa di un residuato bellico. Sto parlando del 2004. Sì, ancora ogni tanto si vede isolato un quartiere perché... Nel 2006 è morto un recuperante a San Donà di Piave. L'anno scorso ne sono morti uno a Crocetta del Montello e un altro a San Lazzaro di Salena. Quindi voglio dire... Giovanni, che tipo di bombe erano? Le bombe d'aereo, quelle grandi, o queste bombe giocattolo di cui parliamo? No, quella di Reggio Calabria era una bomba a mano, probabilmente. Bombe d'aereo, non muore una persona, quando esplode una bomba d'aereo è diverso. La bomba d'aereo 4 anni fa esplose ad Ostiglia, sì, e buttò giù 2 cascine, e le cascine ad Ostiglia sono simili ad incrociatori. Lei ha mai avuto degli incidenti? Io? Grazie a Dio di questo genere, no. Però ha testimonianze di persone che fanno il suo lavoro che... hanno avuto qualche rischio avanzato, diciamo. Sì, certo, io ho ascoltato la testimonianza dell'amico abruzzese. In Abruzzo tanti sminatori hanno lasciato la propria esistenza proprio per sminare quei luoghi. Che secondo lei, facendo una valutazione approssimativa naturalmente, abbiamo ancora un buon numero considerevole di bombe sottoterra di cui dovremmo stare attenti? Ma noi ce l'abbiamo sottoterra, sì, perché in ritirata, come qualcuno ha anticipato prima, non mi ricordo chi, in ritirata i tedeschi, per essere più agevolati, ovviamente sotterravano ogni tipo di munizione, quindi è ovvio, altrimenti non accadrebbe che l'agricoltore impigliasse le pale del proprio mezzo. Quindi anche noi, voglio dire, nella nostra opera, nel nostro lavoro, avete trovato tante. Ecco, un attimo solo, perché ho Alessandro. Alessandro, buongiorno. Lei ha studiato a lungo il fenomeno delle penne esplosive. Vediamo se c'è qualche altro elemento. Sì, io credevo che fosse una leggenda metropolitana quella delle penne esplosive, perché non mi vedevo gli americani gettare degli ordigni che... facessero male così ai civili indiscriminatamente. Beh, oddio, le bambini. Cluster bomb l'abbiamo viste. Ma le cluster bomb comunque avrebbero una finalità primaria di espandere su una grossa area per saturazione degli ordigni, in modo da moltiplicare gli effetti dannosi nei confronti, ad esempio, di unità di fanteria, per cui poiché possano avere un effetto indiretto nei confronti dei civili, è una cosa che può essere accettata dal punto di vista... Beh, lei cosa ha dedotto allora dalle sue osservazioni, dai suoi studi? Ma io ho parlato con un mio amico che negli anni della guerra aveva una decina di anni e andava col padre a raccogliere queste penne esplosive perché c'era una ricompensa per chi le consegnava. Per cui lui mi diceva che la tecnica migliore per raccoglierla era quella di andare nei fossi di irrigazione, perché evidentemente queste penne venivano gettate dagli aerei. Poi che le gettassero gli aerei americani o quelli da RSI, io non ho idea di chi possa essere. Però lei le ha mai viste? Perché sa di tante, no, ai miei tempi... Io ne ho viste qualcuna, perché credevo che fossero... esplosive, nel senso di che ci fosse un fraintendimento sul discorso dell'esplosività, sì. Nel senso che gli americani paracadutavano delle piccole pistole monocolpo, sì, destinate alla resistenza. Per cui io credevo in un primo momento che queste penne esplosive fossero in realtà delle pistole monocolpo e il danno che si poteva fare il bambino, sì, o la persona che la raccoglieva fosse quella di sparare. Invece, così chiudiamo, perché in realtà queste penne esistevano, erano effettivamente esplosive e questa persona che aveva una decina d'anni durante il periodo della guerra, andava a raccoglierle e le trovava in gran numero col padre. Va bene, Alessandro, mi sembra che cerchiamo noi avere la presunzione di risolvere adesso in una trasmissione radiofonica un dilemma che mi sembra che abbia assillato notevolmente anche osservatori storici. Comunque abbiamo toccato e lambito il problema. Con le bombe ci abbiamo giocato, le bombe le abbiamo conosciute e ancora di bombe ne abbiamo tante sottoterra. Ringrazio Fabrizio Intonti e Paolo Corleoni e l'appuntamento per domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111.